Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Si intitola Dizionario del perfetto cinico e raccoglie un vasto repertorio di citazioni e aforismi di illustri scrittori che nel corso dei secoli hanno spiegato l'arte di dire cattiverie. Il cinismo è una cosa seria. Fondata nel IV secolo a.C., la scuola cinica è un prolungamento di quella socratica. Il resto delle banali informazioni cavatele da Wikipedia. I suoi cardini sono un eroico disprezzo delle convenzioni sociali, l'orrore per le superstizioni, un clamoroso esercizio della virtù. Proposito per il 2010. Diventare un ottimo cinico. Sloggiate, cari. Il cinismo promette una vita da cani, come ci insegna l'etimologia. Cinikos deriva da Kinos, che è il fedele amico a quattro zampe. Alloggia in una botte, come Diogene che ha sconfitto il re del mondo, Alessandro Magno, con una frase. Va bene, mi arrendo. Da quel dì sono passati 2500 anni. Le parole si sfaldano e il cinismo è diventato, lo certifica qualsiasi funereo dizionario, il disprezzo nei confronti di qualsiasi ideale umano. Da moralisti incalliti, i cinici sono diventati dei catatonici altezzosi, una variante eccentrica e crudele dello snob. Forse è proprio per questo che la casa editrice più snob del paese, la Excelsior 1881, ha partorito per il nuovo anno Il dizionario del perfetto cinico. Il libro è confezionato da un francese, Roland Jacquard, ed ha come aborto: io sono contro. Uccidere un essere umano prima che nasca è inammissibile, è una dimostrazione di impazienza. Ha V come voluttà. La voluttà unica e suprema dell'amore risiede nella certezza di fare il male, parola di Baudelaire, raduna in un cestino le mele velenose. Se avete il cuore candido di Biancaneve ruotate altrove i tacchi, le più belle frasi dei maggiori cinici. Ovvio che l'idea sia sorta da un francese. Montaigne è il più grande moralista della storia. Un genio cinico che, in calce ai suoi saggi, ci avvisa che sono io stesso la materia del mio libro. Non c'è ragione che tu spenda il tuo tempo su un argomento tanto frivolo e vano. Addio, dunque. Stupendo esempio di falsa umiltà. Un bel modo per darci graziosamente dei cretini. Solo un cretino, ad esempio, può desiderare di non essere un cinico. L'arte del parlar male degli altri riscuote successo da quando l'uomo ha imparato la stazione eretta. E se il genio dell'uomo fosse proprio in questa suprema qualità? Tutti possiamo ripetere insieme che il coito non è che il surrogato insoddisfacente della masturbazione. Karl Kraus. Oppure che i giornali sono illeggibili, la letteratura nessuno la legge. Oscar Wilde. Oppure che il cristianesimo è una religione di eunuchi, il giudaismo di bambini e l'islam di porci. Averroè. Felicitandoci della nostra astratta superiorità, della nostra adamantina solitudine in cui coltiviamo la cattiveria come la pianta più rara e profumata. Quindi, diciamo che le premesse di Jacquard, che parla di moralisti piuttosto che di cinici, sono confortanti. Il metodo del moralista è agli antipodi di quello del filosofo. Diffida di ciò che non è concreto. Il concetto di uomo lo interessa meno degli uomini reali con le loro qualità, i loro difetti, i loro retromondi. In soldoni, è più comodo dire che vogliamo salvare l'umanità o i bambini afghani. Se ci tocca di fare i conti con il vicino di casa, gli taglieremo serenamente la testa in due. I risultati sulla carta sono brillanti, ma piuttosto banali. La massa di citazioni rasenta l'effetto Baci Perugina e alla fine abbatte le ambizioni di ogni cattivo integrale. Forse il vizio è nella decantata arte dell'aforisma, esaltata come l'arte delle vette, architettati casualmente da Eraclito, perfezionati da Nietzsche, praticati pure dalle casalinghe. Gli aforismi pretendono lettori asini che non mettano mai in discussione assiomi discutibili e più che accendere la miccia della mente fanno esplodere la rabbia. L'aforisma è un'arte tirannica. Puoi dire quel che ti pare, e se dici una minchiata, hai l'alibi che tutti sono scemi tranne te. La vanità del cinico moderno. Il buon cinico, perciò, piglierà questo rosario di aforismi per devastarlo, sgranarlo, pisciandoci sopra come fanno i cani. Non lapidatemi. Ho tatuata in fronte la lapidaria frase di Crizia, per cui nulla v'è di certo se non poiché è nato il morire e, finché vive, l'impossibilità di trascorrere una vita esente da sciagura. Credo fermamente, come dice Leopardi nello Zibaldone, che tutto è male e che l'esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità. Eppure tutto questo non mi sazia. Diffido, come insegna David Maria Turoldo, egualmente degli ottimismi, scemi con le fette di salame sugli occhi, e dei pessimisti. Troppo spesso, con il saio dei catastrofisti, penso che l'ovvio punto di partenza sia il male. Ma per poi compiere lo sforzo, il sacrificio umile, e per questo eroico, del bene. Voglio dire che ho brindato per l'anno nuovo in compagnia di una truppa di fieri cinici, pensando, come Maurice Maeterlinck, che l'intelligenza è la facoltà grazie alla quale capiamo finalmente che tutto è incomprensibile, preferendo come Choran un portinaio che si impicca a un poeta vivente, scegliendo tra tutti i convitati la caustica intelligenza di Jerry Lewis, uno per cui la felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta che cercare di essere felici senza. Eppure, questo sontuoso libretto, un toccasana per il nuovo anno, ornato da alcune argute vignette di Rolando Por, che è anche l'estensione della voce aborto. In una c'è un sedere che defeca il viso di un uomo, nell'altra c'è un fanciullo che succhia una lacrima a forma di tetta, nella terza un tizio che minaccia una donna in reggiseno puntandole sulla schiena la verga a forma di pistola. Deve fatalmente, dopo detta lettura, essere gettato nel cesso. Perché la malignità non è corroborante, altrimenti il cinico sarebbe uno stoico. Alla lunga infetta. Rischiamo di crogiolarci per tutto l'anno nella culla della nostra presunta regalità. Distruggere è troppo facile, procura erezioni a catena. La cosa difficile è costruire. Ci sentiamo potenti se incendiamo un bosco, ma questo è un tempo che richiede la pazienza del santo che infossa con atto disinteressato un seme, attende l'albero, i cui frutti verranno raccolti dal figlio o dal nipote. In fondo, la più bella definizione dei cinici, ricordate il cane, ce la spiattella Voltaire, alla voce uomo. In genere gli uomini assomigliano ai cani che latrano quando sentono da lontano altri cani latrare. La dico a modo mio. Abbiamo fatto troppo casino in questo millennio. È meglio mettere in ordine la stanza. Buon anno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Davide Brullo, L'arte sublime di dire cattiverie, da Libero del 3 gennaio. Tra 27 anni un asteroide potrebbe colpire la Terra. Anche se le possibilità di collisione sono minime, la Russia si sta già preparando a lanciare un missile per evitare l'impatto fatale. In queste ore sta solcando lo spazio a grande velocità. Il suo viaggio sarà ancora lungo, almeno secondo i nostri parametri temporali. Finirà, se i calcoli degli scienziati sono esatti, il 13 aprile del 2036, giorno di Pasqua, con un devastante schianto sul pianeta Terra. Si chiama Apophis ed è un asteroide che misura 390 metri di lunghezza. Un killer spaziale che minaccia di provocare una catastrofe in un'area ancora non chiaramente definita. Le previsioni su questo punto sono discordanti. Secondo alcuni scienziati, cadrebbe tra l'Arabia e il Giappone. Secondo altri, tra il Madagascar e la Nuova Guinea. Altri ancora parlano dell'Oceano Pacifico, tra la California e le Hawaii. Per evitare l'impatto c'è un solo modo: deviare la traiettoria dell'asteroide, come già Hollywood ha ampiamente descritto in vari film. Ed ecco Mosca farsi avanti. «Siamo pronti a lanciare un missile contro il grande asteroide in avvicinamento alla Terra», ha annunciato Anatoly Perminov, capo dell'Agenzia Spaziale Russa, ai microfoni di Radio Golos Rossi, voce della Russia. Perminov ha anche precisato che presto riunirà i responsabili dei vari servizi spaziali per discutere della questione e ha lanciato un appello alla NASA, all'Agenzia Spaziale Europea e a quella cinese perché collaborino in un'impresa che fino a ieri apparteneva al mondo della fantascienza. Non a caso l'asteroide killer è stato chiamato Apophis dal nome greco del dio egiziano Apophi, il distruttore. Anche se ci sono ottime probabilità che il temuto impatto con la Terra non si verifichi, restano sempre alcune, poche, possibilità ed è per eliminare anche queste che l'Agenzia Spaziale Russa si sta mobilitando. Quando Apophis fu scoperto nel 2004, gli scienziati avevano calcolato che le probabilità di una collisione con la Terra nel 2029 fossero di 1 su 37, un dato certamente preoccupante. Studi più approfonditi hanno però costretto a modificare le previsioni. La NASA ha ridotto la percentuale di rischio di parecchio, prima di una possibilità su 45.000, poi di una su 250.000 nel 2036. Qualora Apophis non si schiantasse sulla Terra, riapparirebbe nei paraggi del nostro pianeta nel 2068, con una possibilità di impatto su 300.000. Si tratta di dati evidentemente approssimativi, condizionati da troppe variabili che non dovrebbero comunque destare molta preoccupazione, viste le minime probabilità di collisione, ma che evidentemente preoccupano Mosca. L'Agenzia Spaziale Russa non ha diffuso dati sulle probabilità di catastrofe. Perminov si è limitato a una richiesta di mobilitazione internazionale per costruire un sistema che permetta di prevenire una collisione invece di aspettare che si verifichi e che provochi la morte di centinaia di migliaia di persone. Il capo dell'Agenzia Spaziale non ha precisato i dettagli del progetto, ha solo sottolineato che non sarà necessaria un'esplosione nucleare, come invece ci si potrebbe aspettare. I nostri calcoli, ha chiarito Perminov, dimostrano che è possibile realizzare un veicolo spaziale che ci permetterebbe di evitare la collisione senza distruggere l'asteroide e senza far esplodere cariche nucleari. Il cinema la pensa diversamente. In Deep Impact e Armageddon, gli scienziati si servono proprio di ordigni nucleari per evitare pericolose collisioni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Berti «La Russia salverà la Terra, un razzo contro Apophis» dal Messaggero del 2 gennaio. Letture di Radio 24. Dalla visita alle case infestate ai pellegrinaggi sui luoghi dove sono avvenuti fatti di sangue. Il weekend all'insegna dell'orrore è l'ultima tendenza del turismo alternativo. Non soltanto frutto della fantasia di registi e scrittori, la lista delle dimore infestate, entrate nelle leggende popolari, è lunga quanto lo stivale. Ma a quelle più storiche, avvolte per tanti secoli nel loro alone di mistero e trasformate per questo in musei, si sommano oggi molte altre case del terrore, teatri di delitti raccapriccianti. Sono questi i luoghi eletti a mete privilegiate per turisti alla ricerca di un viaggio originale che faccia uscire fuori dalla solita routine. Le più moderne sono ormai accompagnate dalla fama di maledette, perché scenari di tragedie sanguinose e tristi fatti di cronaca. Sostare a pochi passi dalla villetta di Cogne o di Garlasco, camminare in via della Pergola a Perugia o ammirare come se fosse un monumento la casa di Erba, sembra essere diventata una moda. Repellenti e affascinanti al tempo stesso, le scene dei delitti di ieri e oggi attraggono il pubblico bene informato, sempre allo stesso modo, soddisfacendo una morbosa e umana curiosità. Limitandoci alle dimore veramente storiche, gli appassionati dell'horror d'autore possono scegliere di visitare edifici che in realtà non hanno nulla di inquietante nei loro ambienti interni, solamente per il gusto di passeggiare in un set cinematografico. Ottima destinazione è allora Villa Scott a Torino, alias la Villa del Bambino Urlante, di profondo rosso, che in origine era dimora di un convitto femminile gestito dalle suore spedite in vacanza premio durante le riprese. Chi invece preferisce la fertile pianura padana, nell'entroterra bolognese, può fare un salto al Casolare di Fiorenzo, a Malalbergo, abitazione del pittore Legnani, morto suicida. Un luogo sicuramente inquietante, che si racconta fosse abitato dalle minacciose sorelle dello stesso. È proprio questa villa ad aver ispirato Pupi Avati per la sua Casa dalle finestre che ridono. Nei dintorni di Voltri, a Genova, sorge la Ca delle Anime, un tempo locanda, i cui gestori assassinavano i clienti, ammassando poi i corpi in un fosso. Entrata nel mito, da allora la casa continua a essere dimora di anime dell'oltretomba, davvero irrequiete e aggressive, che si narra provochino la caduta di pentole e mobili, tanto che nessuno ha più avuto il coraggio di abitarvi. A pochi chilometri dalla Spezia si trova la Casa del Violino, un luogo che stimola certamente l'immaginazione di grandi e piccoli. Vi abitava un musicista, ma misteriosamente, dopo la sua morte, i passanti raccontarono d'aver sentito suonare lo strumento da solo, accompagnato da terrificanti urla provenienti dalle finestre. Tra Padova e Venezia, vicino a Mira, lungo il canale del fiume Brenta, si trova invece Villa Foscari, conosciuta con l'appellativo della Malcontenta. In essa si dice che si aggiri lo spettro della Dama Bianca, che la gente associa ad una certa Elisabetta, aristocratica del Settecento. A causa della sua indole libertina, la donna venne rinchiusa nella villa fino alla sua morte. Secondo alcuni racconti popolari, si dice che la ragazza dai capelli rossi comparirebbe nelle stanze indossando un lungo vestito nero con le spalle scoperte. A Cona, vicino a Ferrara, c'è Villa Magnoni, il cui aspetto desta sicuramente curiosità per via delle finestre murate eccetto una. Si pensa che la causa fosse da collegare ad un incidente avvenuto verso la fine degli anni Ottanta e nel quale morirono tre ragazzi, entrati nella villa alla ricerca di insolite emozioni. I giovani udirono canti di bambini provenire dal giardino, ma all'uscita non trovarono nessuno, soltanto una vecchia signora affacciata alla finestra che diceva loro di andarsene ricoprendole di insulti. Quattro di loro scapparono terrorizzati e poco dopo ebbero un incidente nel quale morirono in tre. Il comune fece murare tutte le finestre tranne una. Il sopravvissuto disse che la vecchia signora era apparsa proprio da quella finestra. Un mistero inquietante è quello che avvolge la scuola elementare della Croara a San Lazzaro di Savena, a Bologna, chiusa dopo la morte di un alunno, spinto da un compagno giù per le scale. Dopo la tragedia, improvvisi malori colpirono il corpo docente e cominciarono anche a verificarsi strani incidenti, come allagamenti improvvisi dei bagni e rumori di pianto provenienti dal fondo delle scale. Il preside finì per licenziarsi e la scuola chiuse. Ma il luogo rimase parte della leggenda locale. Si dice che all'ora della morte, tra le aule, si possa sentire un pianto di bambino accompagnato dal suolo di una palla che rimbalza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Di Pietro, Weekend con il fantasma, dalla Stampa del 4 gennaio. Spesso si dice che viaggiare in paesi stranieri abbia ormai perso il fascino della scoperta. In realtà, spesso siamo noi che, anziché cercare il prodotto autentico della cultura straniera, andiamo alla ricerca dell'immagine stereotipata che ce ne siamo fatti e rischiamo così di rimanere delusi. Ogni pochi mesi, come se seguisse un ciclo stagionale prestabilito, un commentatore oculato qui negli Stati Uniti scrive un articolo sul fatto che viaggiare è un'attività ormai finita. Citando varie statistiche e trend tecnologici, rafforza le sue tesi e insiste che la vera, autentica esperienza di viaggiare nel nostro pianeta non è più possibile, come lo era anche solo poche generazioni fa. Se da un lato posso anche simpatizzare con questo tipo di editoriali, invariabilmente mi riportano alla memoria quello che il monaco cattolico americano Thomas Merton disse quando gli chiesero se avesse mai visitato la vera Asia, quando alla fine degli anni 60 si trovava in India e in Thailandia. A quel che mi risulta, disse, è tutta vera. Il mondo che incontriamo viaggiando è davvero diventato meno autentico di quanto fosse 50, 100 o 400 anni fa. Come il monaco Merton, anch'io non credo. Penso che noi occidentali, così bersagliati da informazioni, siamo talmente complessi ormai nelle nostre aspettative legate a posti e luoghi remoti che abbiamo dimenticato come prestare attenzione quando ci si presenta la nuda realtà. In un certo senso ci siamo illusi, pensando di poter sperimentare e conoscere il mondo soltanto nelle vesti di consumatori, mentre di fatto un'esperienza tranquilla, dinamica, autentica di altri luoghi è possibile ancora adesso, quanto lo era in passato. Una grande contraddizione del viaggiare è che per nostra stessa natura cerchiamo le nostre differenze culturali in terre lontane, ma tendiamo a proiettare i nostri ideali platonici sulle altre culture e su come esse dovrebbero apparire e operare. Non è una novità. Gli antichi greci e romani che raggiunsero l'Egitto proiettarono le loro fantasie esotiche sulla religione e sulla società dei faraoni. A loro volta, i giovani aristocratici britannici del XVIII e XIX secolo partirono anch'essi per la Grecia e per Roma, restando delusi di scoprire ordinarie società di mercanti, invece della magnificenza classica che si aspettavano di trovarvi. In realtà, finché gli uomini hanno viaggiato, l'aspettativa principale del viaggio stesso ha tolto ed eroso un po' di autenticità dalle destinazioni verso le quali erano diretti. Nel suo libro del 1961, intitolato The Image, lo storico Daniel Borstein paragona i paesi stranieri ai personaggi famosi. A noi sembra di conoscerli già, da un certo punto di vista, e questa familiarità distorce il modo col quale pensiamo a ciò che si suppone debbano essere in realtà. Così scrisse Borstein allora. Di rado il turista ama il prodotto autentico, per lui spesso incomprensibile, della cultura straniera. Egli preferisce veder confermate le sue aspettative provinciali. Il turista americano in Giappone non cerca ciò che è giapponese, ma ciò che è giapponesizzante. In sostanza, quindi, ciò che noi pensiamo essere autentico è spesso meno autentico di quello che potremmo altrimenti considerare non autentico. I turisti non sono le uniche persone a rientrare appieno in questo schema. Una volta, mentre mi trovavo a Beirut, ho incontrato un signore libanese che, dopo aver appreso che ero originario delle praterie del Kansas, espresse il desiderio di visitarle e di montare a cavallo insieme agli indiani. Quando gli ho fatto presente che i nativi americani che conoscevo negli Stati Uniti non montavano a cavallo, pretendeva a tutti i costi che io gli dicessi che quelli non erano veri indiani, perché i veri indiani montano a cavallo. Naturalmente, dentro le impressioni di quasi tutti sui paesi più remoti, c'è un pizzico di fantasia. L'unico modo concreto di questa nostra epoca postmoderna di astenersi da false aspettative indotte da fantasia galoppante consiste nel viaggiare con minore supponenza. Smettere di giudicare la realtà sulla base delle proprie aspettative e limitarsi ad accettare ogni momento per quello che è. Se gli adolescenti di un villaggio isolato del Myanmar preferiscono l'hip hop alle canzoni folcloristiche buddiste birmane, forse dovremmo considerarlo più una scelta generazionale degli adolescenti che un segno negativo di contaminazione culturale. Se gli uomini delle tribù Masai del Kenya trascorrono più tempo a inviare messaggini con i cellulari che ad appuntire le lance, abbiamo uno spaccato affascinante su come gli africani hanno introdotto la tecnologia nelle loro vite tradizionali, non una delusione turistica. È interessante notare che il tentativo di accostarsi ai viaggi in un modo più impegnato e con orizzonti più aperti, nel corso degli anni ha prodotto una forma di supponenza. Mi riferisco in particolare al dibattito turista contro viaggiatore, argomento un tempo al centro di dotte e retoriche dissertazioni, che implica che alcune persone siano capaci di viaggiare meglio di altre. Probabilmente è vero che alcuni modi di viaggiare sono superiori ad altri, però il dibattito turista contro viaggiatore è più una questione di status da esibire all'esterno che un approccio etico interiore. Perciò ha molto più a che fare con certe trascurabili ossessioni di casa nostra che con le realtà e le possibilità del cammino. Teoricamente un viaggio dovrebbe essere un atto di umile curiosità e quando iniziamo a preoccuparci su dove ci collochiamo in relazione agli altri viaggiatori, in un certo senso perdiamo di vista la cosa più importante. Sotto certi aspetti, infatti, il dibattito sul turista viaggiatore è una forma di insicurezza, una sorta di copertina di Linus a cui ci appigliamo nell'incertezza delle atmosfere sociali che incontriamo appena usciamo di casa. Invece di valutare costantemente i nostri viaggi in rapporto agli altri, forse potremmo investire più saggiamente le nostre energie nel fare di noi stessi, in tutta tranquillità, dei viaggiatori più riflessivi, a modo nostro. Come farlo? Il segreto è trattare il viaggio più come un regalo da assaporare, un'occasione unica per vivere un'esperienza illuminante della stessa vita, che come un'esperienza consumistica da gestire nei minimi dettagli. Per quanto astratto e idealizzato ciò possa sembrare, non è difficile viaggiare in modo più autentico e significativo. Io chiamo questo approccio vagabonding. E il segreto del vagabonding è investire tempo e non soldi nei nostri viaggi. In altre parole, concedersi più di una vacanza, uno stacco dalla vita normale e viaggiare di proposito, non per giorni o settimane, ma per mesi e anni. In questo modo la frontiera finale del viaggio è un traguardo personale. In un'epoca postmoderna, quando velocità e interconnessione regolano ogni aspetto della nostra vita, il modo migliore per perseguire la vera esperienza del viaggio è staccare la spina e rallentare i ritmi. Quanto più lungo è il viaggio, tanto più si imparerà a cavarsela nei problemi, a gustare anche le scomodità e i piccoli inconvenienti, ad abbracciare la serenità e la serendipità. In questo modo il viaggio diventa, più che una fuga dalla vita di tutti i giorni, un pellegrinaggio nei ritmi reali e nelle sorprese che ci si attende dall'essere vivi. In altre parole, non dovremmo semplicemente fare viaggi, dovremmo piuttosto, con pazienza, lasciare che i viaggi facciano altro di noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rolf Potts, Vagabondare è un'arte, dall'Espresso numero 1 del 7 gennaio. Ha destato scalpore la notizia che ogni giorno nella sola Milano si buttano via 180 quintali di pane invenduto, soprattutto se confrontata con le cifre, sempre in crescita, di persone che ogni giorno muoiono di fame. Ma non esiste alcuna relazione tra la ricchezza di una parte del mondo e la miseria dell'altra, scrive Carlo Stagnaro sul Foglio. In un'economia di mercato, gli sprechi sono purtroppo inevitabili. L'ultima è quella del pane. Se raccogliessimo ogni briciola e ogni avanzo, farebbero 244.000 tonnellate di cibo all'anno, pari a 1 miliardo di euro. Abbastanza per 636.600 persone, col corollario immancabile e politicamente corretto, di 291.393 tonnellate di anidride carbonica in meno. Com'è possibile? Semplice. Possiamo permettercelo. Lo spreco non è uno scandalo, è la condizione dell'esistenza. Lo spreco è un giudizio soggettivo. Esiste perché, nella nostra percezione, i beni scartati valgono meno dello sforzo che dovremmo fare per salvarli. Lo spreco esiste in qualunque economia non di sussistenza e probabilmente anche lì. Ora, sarà vero che è possibile, a costo zero o addirittura guadagnandoci, ridurre gli avanzi. In fondo, trovare un equilibrio è lo sforzo quotidiano di milioni di aziende e di famiglie che cercano di centellinare i quattrini. Il problema è pretendere di misurare lo spessore etico della gente con le baguette ammuffite e trasformare uno sforzo individuale in un obbligo collettivo. E poi, non solo pane spreca l'uomo, anche l'energia, che se solo spegnessimo il fottutissimo LED rosso della TV, bye bye Arabia Saudita. Per non dire dell'acqua, che se tenessimo le mutande del giorno prima, ci disseteremmo eserciti di poveracci. E via via. Gran parte dell'isteria antispreco poggia su un pregiudizio. Poiché con gli scarti di uno si potrebbe nutrire l'altro, tra le due cose si istituisce un nesso causale. Se Tizio non sprecasse, Caio starebbe benone. Se gli italiani abolissero il bidet, l'acqua zampillerebbe nel deserto. In verità, se mangiassimo tutto, saremmo solo un po' più obesi. Non c'è alcuna relazione, in generale, tra l'opulenza di questo e la miseria di quello. Anzi, è più spesso vero il contrario. Il povero sarebbe ancora più povero se il ricco fosse meno ricco, perché questi consumerebbe meno. Lo ha detto incredibilmente bene nei giorni scorsi Victoria Beckham, che, accusata di avere ceduto nei regali, ha risposto: «La sobrietà non aiuta l'economia, la uccide». C'è semmai un legame strettissimo tra spreco e ricchezza, sociale così come individuale. Non è che siamo ricchi perché sprechiamo, e per lo stesso motivo altri sono poveri, è che sprechiamo perché siamo ricchi. E se anche astrattamente fosse vero che l'uomo frugale sarebbe migliore di quello dalle mani bucate, il mondo vero è popolato dalla seconda categoria di individui. I primi vivevano nelle caverne. Pensarla altrimenti significa credere che esista uno stock finito di beni e servizi e dunque una fetta più grande va sempre assieme a un'altra fetta più piccola. Per dare l'acqua agli assetati c'è una sola scelta: farli diventare capitalisti e dotarli delle tecnologie necessarie a fare pozzi più profondi, o desalinizzare l'acqua del mare, estendere le condutture da dove l'acqua c'è a dove serve. L'economia di mercato, occorre ricordarlo, è una prodigiosa macchina per creare e distribuire benessere e ricchezza, e in questo senso causa sprechi, cioè ci mette nella condizione di vivere di più e meglio, consumando più cose e migliori. Oltretutto, le politiche antispreco costano più di quel che rendono, tant'è che sono agghindate da richieste di sussidi. Il confine tra le buone intenzioni e gli interessi più prosaici è davvero labile. Del resto, solitamente chi non spreca non ha nulla da sprecare. Beato il mondo che non ha bisogno di risparmiare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Stagnaro, Elogio ragionato della ricchezza e dello spreco, di Michette, dal foglio del 5 gennaio.